parola all'amico, in questo caso dico così, all'amico Vasoli. Certo. Questa parola professore oramai dopo le prime battute va eliminata. Si penserebbe anche di fare in questo modo. Dopo la relazione di Vasoli cominciamo una prima discussione, poi ci sarà una giusta esigenza alla quale tutti da amici faremo fronte. Nel pomeriggio, dopo la relazione già in tensione ormai diffusa, che per oltre un secolo, tra gli inizi del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, le accademie non furono soltanto i più importanti veicoli di un diffuso rinnovamento culturale, ma che la loro influenza sulla vita letteraria, scientifica, religiosa e talvolta anche politica dell'Europa occidentale fu così vasta e profonda da condizionarne alcuni dei suoi sviluppi più significativi. Non v'è dubbio che lo studio di queste istituzioni costituisca oggi un passaggio obbligato per chi voglia comprendere senza deformanti distorsioni ideologiche in modo rigoroso e documentato la funzione svolta dai diversi gruppi e ceti intellettuali nella storia della società europea, intenderne la reale efficacia e individuarne taluni caratteri dominanti. Non sarebbe possibile far luce su molte personalità, ambienti e vicende di un'età così decisiva senza ricostruire la fitta rete di relazioni e rapporti che unirono tra loro i centri intellettuali più attivi dei diversi paesi, permisero la diffusione di idee e dottrine spesso contrastanti con il sapere tradizionale arroccato nelle università e soprattutto mirarono a ricostituire una nuova unità del sapere superiore ad ogni frattura religiosa e politica e arricchita dai risultati di uno straordinario incremento delle esperienze e conoscenze umane. Naturalmente la storia delle accademie è di per sé stessa difficile e complessa, irta di problemi la cui risoluzione è resa malagevole talvolta dalla scarsità dei documenti, ma più spesso dall'intreccio degli interessi filologici ed eruditi con quelli filosofici, scientifici e storici, dal mescolarsi di seri propositi di rinnovamento culturale con presunzioni e illusioni provinciali, nonché dalla lunga persistenza talvolta di atteggiamenti e tendenze occultistiche che hanno permesso facili e antistoriche liquidazioni di un fenomeno così interessante per gli studiosi della storia delle idee. Ma per chiarire subito bene il ruolo che quelle istituzioni svolsero nella storia della tradizione enciclopedica cinquecentesca ed il loro apporto ai futuri progetti pansofici che sono un aspetto tipico della cultura del Seicento, basterà soltanto precisare alcuni dati essenziali necessari per intendere almeno i punti nodali di una vicenda non semplice e non sempre lineare. Intanto, per prima cosa, le accademie furono le eredi più dirette delle scuole umanistiche quattrocentesche e di queste intesero continuare la funzione innovatrice e critica in una situazione storica molto diversa, caratterizzata dal rapido incremento anche numerico dei ceti intellettuali, dalla crisi sempre più profonda delle istituzioni, da imponenti trasformazioni sociali e politiche, nonché dalla progressiva dissoluzione di un'antica e venerata imago mundi. Nate proprio in piena età umanistica, dall'iniziativa di dotti che erano spesso estranei alla cultura e alla disciplina scolastica e clericalis dei magistri, oppure da insegnanti e scolari che erano in potenziale conflitto con le vecchie istituzioni, questi luoghi autonomi di produzione intellettuale mantennero spesso un significativo distacco dal mondo universitario ufficiale, o almeno si posero problemi e discussero temi che non avevano luogo nei curricula delle scuole ed esorbitavano dai quadri tradizionali del sapere. Non meraviglia che intorno alle accademie corresse spesso la fama di segrete cospirazioni, il sospetto di operazioni non chiare al limite dell'illecito, di pratiche magiche o di propensioni ereticali, talvolta reali, coperte dal pretesto dell'esercizio letterario erudito, e che i poteri politici e religiosi si affrettassero a controllarle o sopprimerle, quando non mirarono addirittura a trasformarle in propri strumenti convenientemente riformati e istituzionalizzati. Con tutto questo, almeno per gran parte del Cinquecento, le accademie restarono i più importanti centri di raccolta e di organizzazione di intellettuali di tipo nuovo, spesso legati agli uffici e alle corti, ma più frequentemente operanti ai margini delle maggiori imprese editoriali del secolo o al seguito di grandi famiglie di importanti personaggi religiosi o politici. Uomini la cui mentalità era attratta da metodi e esperienze inedite, la cui formazione prevalentemente letteraria era però aperta a interessi vari e originali e che nutrivano profonde inquietudini filosofiche e religiose, rese ancora più acute dalla coscienza di vivere in un'età di crisi e di profonde trasformazioni. Per costoro l'istituzione accademica significò non solo il tentativo di costituirsi un proprio terreno autonomo di incontro, in un rapporto spesso anche diretto con i loro protettori e committenti, bensì soprattutto il luogo in cui confrontare idee, aspirazioni, credenze e conoscenze che il mutare e l'arricchimento delle esperienze rendeva problematiche, e cercare anche di ricostituire un'immagine unitaria del sapere in luogo di quella ormai posta in gioco da una critica sempre più raffinata e radicale. Non è quindi un caso se già nelle accademie del tardo 400 e poi del primo 500 letterati e filosofi, uomini di scienza e storici e persino eruditi e teologi trovarono uno strumento prezioso per avviare una collaborazione e un discorso comune al di fuori dell'isolamento in cui gli rigiditi canoni scolastici avevano condannato le singole discipline, scienze o arti. Ne stupisce che proprio in questi ambienti trovasse immediata risonanza il diverso ma vicino appello alla ricomposizione concorde e pacifica della sapienza di tutte le conoscenze umane che proprio sul finire del 400 era stato proposto da Giovanni Pico e da Agnolo Poliziano. Il grande tema della concordia che il conte della Mirandola aveva lanciato con il suo progetto di un universale concilio dei sapienti di tutte le genti, chiamati a promulgare la originaria unità di tutte le fedi, di tutte le filosofie, di tutte le scienze, esercitò infatti sempre una profonda influenza sul mondo accademico cinquecentesco, dove spesso ebbero eccezionale accoglienza anche le idee più ardite, i temi cabalistici, i richiami lulliani e le aspirazioni magiche sollecitate anche dalla grande fortuna della letteratura ermetica e dal fascino dei cristi teologi. Ma credo che non sia stata minore anche l'attrazione dell'alto programma, delineato quasi negli stessi anni e nello stesso ambiente, quello che il Poliziano affidò al suo panepistemon, quando vi delineò il progetto di una rinnovata enciclopedia greco-latina, capace di raccogliere tutti i frutti delle antiche civiltà e della loro attuale rinascita, secondo lo spirito e la mentalità propria di un raffinato filologo e uomo di lettere, che intendeva però estendere i metodi critici della propria scienza all'intero universo del sapere. Sul cadere del 400, per una generazione di intellettuali ormai consapevole del significato innovatore della propria formazione umanistica, non poteva più bastare l'esercizio di un'impeccabile tecnica grammaticale e retorica esercitato sui massimi documenti delle civiltà classiche. Era inevitabile che si mirassero a ritrovare al di fuori di ogni inesistente opposizione tra le idee e le lettere una tradizione unitaria dello scibile, ugualmente affidata alle nuove capacità persuasive di un discorso non barbaro e al fascino perenne di dottrine ancora ben vive e operanti. Soprattutto essi dovevano ormai sentire come proprio il compito di rimeditare con più limpida coscienza critica il grande tesoro di conoscenze filosofiche e scientifiche trasmesse attraverso i secoli da una lunga catena di sapienti, di rinnovarne l'ordine, la disposizione, il metodo e di affidarla ad opere destinate a una circolazione più vasta di quella riservata ai ponderosi trattati e commenti universitari scritti con la chiarezza e la persuasiva eleganza richiesta da un pubblico colto di nobili, patrizi, borghesi e magari anche artiste che cercavano un più facile accesso alle fonti del sapere filosofico e scientifico. Per intendere come in questi anni la connessione tra le istituzioni accademiche e le vocazioni enciclopediche fosse già stretta e profonda, non v'è del resto che da prendere in considerazione la prima grande accademia che fornì un prestigioso modello e costituì un precedente di importanza decisiva. Quella che si costituì a Venezia intorno ad Aldo Manuzio, della sua eccezionale impresa editoriale, proprio tra l'ultimo scorcio del 400 e i primi decenni del nuovo secolo. Non è mio compito ricordare qui quanto gli studi più recenti sul grande filologo editore hanno bene appurato e certe bellissime pagine di Carlo Dionisotti hanno illuminato con la misura e la maestria di una superiore comprensione storica, e cioè il carattere fortemente enciclopedico della lunga attività editoriale di Aldo, volta evidentemente a integrare le conoscenze filologico-linguistiche e la disciplina letteraria con il recupero integrale della sapienza filosofica e scientifica dell'antichità, individuata nelle sue massime tradizioni. In questa prospettiva, accanto ai testi dei maggiori poeti, oratori e storici delle sue lingue, trovano così largo posto i documenti della duplice tradizione aristotelica e platonica, le opere dei maggiori commentatori, gli scritti di Ippocrate, di Galeno, di Euclide e di Tolomeo, insieme a Lucrezio, e ad altre testimonianze della complessa e controversa ricchezza della scienza antica. Ma non va neppur taciuto che proprio all'inizio del secolo, nel 1501, le stampe manuziane pubblicarono il Despetendis et Fugiendis Rebus di Giorgio Valla, opera di un maestro delle arti di Candy, che era però un indubbio conoscitore di certi documenti fondamentali del pensiero filosofico classico, aveva familiarità con testi medievali anche recentiori, se possedeva e usava alcune grandi opere scientifiche dell'antichità in codici particolarmente prestigiosi come il celebre e perduto manoscritto Alfa di Archimede. E anche in questo caso si tratta di un'opera ben rivelatrice della mentalità enciclopedica umanistica, espressione di un'unità e continuità del sapere perseguita, è vero, spesso in modo compilatorio, ma con l'evidente proposito di ricongiungere e riordinare in un quadro generale comune esperienze e conoscenze ritenute indispensabili e preziose. Gli studi che anche in questi ultimi anni hanno sondato il vasto materiale raccolto nel Despetendis et Fugiendis Rebus hanno ormai posto in rilievo l'importanza di questo libro come tramite di dottrine che raggiunsero uomini o ambienti prima estranei al complesso travaglio teorico della scienza antica e medievale e confermano la funzione enciclopedica di questo testo, che appartiene non a caso anche a Leonardo, nel quale si incontrano così spesso il richiamo, la citazione vasta e schietta di opere divenute ormai parte integrante di una cultura che, secondo gli ammonamenti picchiani, non considera le lettere come mero ornamentum, bensì come strumenti per recuperare problematiche filosofiche e scientifiche di valore ancora essenziale. Resta però da dire che il successo dell'impresa aldina non fu dovuto soltanto alle eccezionali doti del Manuzio e alla sua comprensione del ruolo ormai assunto dalla stampa nel perseguimento di un progetto di tale portata, ma anche, se non soprattutto, alla cooperazione di quel gruppo di intellettuali di varia dottrina che si riunirono intorno ad Aldo e furono i suoi collaboratori in ogni fase dell'attività editoriale, dalla progettazione e scelta dei testi, alle versioni e commenti, alla stessa fatica tipografica. I loro nomi sono molti e quasi sempre tra i più noti agli studiosi della filologia umanistica e della cultura del tempo. Basterà qui ricordare dotti filologi bizantini come Marco Musuro e Giovanni Lascaris, personalità che ebbero poi un diverso ruolo nella vita letteraria e religiosa, come Legnazio e D'Alessandro, eruditi, studiosi e maestri come Niccolò Forteguerri, Lazzaro Bonamico e Alessandro Bernardini, un artista e tecnico come Fra Giocondo e un cultore dei misteri egiziani della sapienza orientale come Fra Urbano Valeriano. Per tacer poi della più alta e più nota personalità, che per qualche anno però nella bottega dell'Accademia di Aldo, il massimo umanista del Cinquecento europeo, Erasmo da Rotterdam, la cui influenza negli ambienti intellettuali e accademici italiani è ora più nota per gli studi dell'Asai del Menti e di un altro protagonista del rinnovamento culturale del secolo, Thomas Linnaeus. Ma si sa pure che nell'ambiente aldino si muovevano anche artisti e letterati, patrizi e uomini di chiesa, scienziati e cultori anche di arti più segreti, tutti attratti dalla personalità e dai programmi di un umanista che non a caso era stato amico di Giovanni Pico e di Agnolo Poliziano e ne aveva sentito profondamente l'insegnamento e le aspirazioni. Aldo Manuzio morì nel 1515, dopo un periodo tra i più drammatici della storia della Repubblica Veneta, che incise duramente anche sulla vita intellettuale delle terre di San Marco. Ma la tradizione accademica non si spense né nel mondo fiorentino e toscano, come dimostra la storia di quel gruppo di intellettuali che a Firenze dettero vita ai convegni degli Orti Oricellari e dopo la prima restaurazione medice alla Sacra Accademia, così vicina al modello offerto dal cenacolo ficiniano e dalla sua vocazione speculativa e teologale, e poi le vicende di quegli ambienti veneziani nei quali si mossero negli stessi anni il Bembo e il giovane Contarini, o di quei nobili e dotti senesi ai quali risalgono le origini degli intronati. È assodato che tra questi gruppi e personalità corsero rapporti assai importanti, che favorirono non solo l'integrazione tra esperienze culturali e filosofiche tra loro diverse, bensì l'elaborazione di problematiche comuni, tra le quali, come è noto, assunse presto un'importanza centrale il dibattito sulla lingua e sugli strumenti di diffusione del sapere in un pubblico assai più vasto, esteso e differenziato. Credo tuttavia che per valutare i risultati di questo processo in modo più rapido si debba guardare soprattutto a una istituzione accademica che si costituì a Padova intorno al 1539, quell'Accademia degli Infiammati, formata da uomini di indiscutibile formazione e interessi umanistici, che erano stati però, o erano ancora studenti o maestri nel celebre studio patavino, principale centro di elaborazione di una rinnovata tradizione aristotelica molto sensibile alle metodologie umanistiche. I nomi delle personalità più interessanti dell'Accademia sono ben noti, perché si tratta di Sperone Speroni, Bernardino Tomitano e Vincenzo Maggi, uomini di cui sono ben noti gli stretti legami con la cultura universitaria del tempo, e ancora di intellettuali, soprattutto toscani e veneti, tra i quali basterà ricordare Alessandro Piccolomini, Leone Orsini, Daniele Barbaro, Ugolino Martelli, Benedetto Varchi e Luigi Alamanni. Va detto però subito che gli infiammati non si limitavano a leggere e commentare Omero e Teocrito, Orazio e Virgilio o a proporsi quei temi di teoria della poesia e dell'espressione letteraria che furono così tipici della matura cultura cinquecentesca italiana ed europea. Perché nell'Accademia si tenevano discussioni su argomenti filosofici e addirittura teologici, svolte spesso in volgare, e con particolare riferimento al problema dell'uso scientifico di questa lingua, ai rapporti tra le varie discipline filosofiche e ai loro particolari strumenti logici e retorici. Per intendere meglio gli interessi di questi intellettuali, non si dovrà quindi dimenticare che il letterato Sperone Speroni era stato discepolo del Pomponazzi e dal 1520 al 23 lettore alla cattedra ordinaria di logica e a quella straordinaria di filosofia nell'Università Padavina. Che il Tomitano a partire dal 39 fino al 63 vi fu acclamato professore di logica, che in Maggi fu anch'egli a lungo docente nello studio, e che lo stesso Piccolomini fu al pari del Varchi e dell'Alamanni, studente in quella università, dove avevano insegnato alcuni dei partecipanti all'Accademia Albina. Più importa però sottolineare che anche i problemi affrontati dallo Speroni nel dialogo della lingua, nel dialogo della retorica, o dal Tomitano nei ragionamenti della lingua toscana, non furono affatto estranei alla tradizione enciclopedica di cui stiamo parlando. Basti dire che nella parte conclusiva del dialogo della lingua, ove è riferita una supposta discussione tra il Lascaris e il Pomponazzi sulla dignità e l'uso filosofico delle lingue classiche e del volgare, emergono chiaramente due idee dominanti, e cioè che il compito della vera filosofia consiste nel ripercorrere l'ordine unico e perfetto della realtà e che il volgare fornisce appunto lo strumento più facile e agevole per comunicare e apprendere un sapere comune che gli amatori e gli studiosi di dottrine potranno bene intendere senza l'intermediario delle lingue strane. Ma lo Sperone era al tempo stesso ben consapevole, come lo era pure il Tomitano, che la verità assoluta della filosofia e della scienza non è mai del tutto raggiungibile dalla mente umana e che soprattutto nell'ordine della vita civile, del quotidiano commercio in cui vivono gli uomini, valga più il verosimile del vero, la persuasione dell'oratore, piuttosto che la nuda dimostrazione del filosofo. Per questo sia nel dialogo della retorica dello Speroni, sia nei ragionamenti della lingua toscana del Tomitano, mentre resta ben ferma la distinzione tra il procedimento apodittico proprio della scienza filosofica e l'argomentazione probabile della persuasione retorica, viene ribadita la convinzione che proprio l'oratore sia capace di adeguarsi alla natura, qualità, maniere, costumi, vita e professione di chi l'ascolta e rivolgere i propri discorsi a quei fini educativi e di diffusione e comunicazione del sapere per i quali non sono adatti i rigorosi strumenti della pura logica e della filosofia magistrale. Il discorso dello Speroni e del Tomitano riflette, a mio parere, una lucida consapevolezza dei problemi storici che erano posti dalla formazione di ceti intellettuali ormai estranei alla tradizionale routine accademica e dall'ascesa culturale di gruppi sociali ai quali lo stesso sapere doveva essere comunicato con strumenti razionali e linguistici molto diversi da quelli propri della disciplina e dei curricula scolastici. Sicché si comprende perché proprio nell'ambiente degli infiammati si affermasse una precisa tendenza, se non un vero e proprio programma di diffusione e volgarizzazione delle conoscenze scientifiche e filosofiche strettamente connessi agli interessi così vari e molteplici degli accademici. Non posso soffermarmi su tutti i casi e indizi particolari, ma sarà sufficiente, credo, indicare qui come esempio l'opera del senese Alessandro Piccolomini, che alle esigenze così indicate dallo Speroni e dal Tomitano dette una concreta espressione nei suoi scritti filosofici composti in lingua italiana. Autore oltre che della celebre Raffaella, di un manuale di educazione morale, che rispecchia assai bene il proposito di elaborare un metodo educativo proporzionato ed accomodato al giudizio e all'intendimento dei più degli uomini, intelligente volgarizzatore della filosofia peripatetica nei due libri della filosofia naturale in altri scritti, buon espositore di dottrine astronomiche, attento anche alle discussioni contemporanee sul significato e valore logico delle dimostrazioni matematiche, egli fu infatti il tipico rappresentante di una cultura di impianto umanistico, ma ben fondata su un'effettiva conoscenza delle dottrine filosofiche e scientifiche, e intesa a rendere sempre più diffusa ed estesa la conoscenza totale dello scibile. Che poi la sua principale ambizione fosse di portare quelle dottrine che toglieva a trattarne la nostra lingua, capacissima d'ogni scienza, e snodare, aprire e illuminare le materie in modo che divenga così facile e così aperta la loro intelligenza, che qualunque non sia al tutto rozzo e mobile d'ingegno lo possa capire al manco per la maggior parte, e detto eloquentemente nella parafrasi della retorica compiuta nel 65, dopo il suo ritorno a Siena, ove ebbe una parte preponderante nell'attività dell'Accademia degli Intronati. Ma il suo scritto forse più interessante è quel manuale di logica in volgare, l'istrumento della filosofia, che Piccolomini compose nel 50, 5 anni prima di un'altra celebre logica in volgare, la Dialettique di Pietro Rama. Nell'introduzione egli afferma appunto di aver composto quel libro per solo desiderio di giovare a molti che io conosco di intelletto buonissimo e tatto a filosofare, i quali non sapendo altra lingua che l'italiana lor materna, per non consumare in tor lingue strane che gli avanza dei buoni anni, molto si vivono nell'ignoranza. E si ricorda che molti hanno già scritto di cose filosofiche in lingua italiana sulle più varie materie, che vanno dai temi consueti della filosofia d'amore, alle discussioni sull'immortalità dell'anima, sulla provvidenza e sul fato, sulla libertà degli uomini, sottolinea però che nessuno ancora ha esposto in volgare i fondamenti della filosofia, né ne ha illustrato gli strumenti. Pertanto il nobile senese considera suo compito essenziale svolgere con lingua propria nostra ogni importante parte della filosofia, incominciando a scrivere con ordinato concatenamento delle cose fin dai loro principi, in modo che tutti possano ben godere dei benefici della perfezione della filosofia, non escluse neppure le donne che, conoscendo solo la lingua italiana e non avendo cultura scolastica, restan per questo prive e ignude senza lor colpa di quegli abiti che farle potrien felici e possono, leggendo, imparare di quanta forza siano le virtù che loro convengono. Il sapere non è dunque per il piccolomini il possesso riservato dei solenni magisti degli studi e neppure il patrimonio privilegiato di un ceto ristretto di dotti rigorosamente separati dal comun volgo dei poco letterati, che anzi capaci come sono di perseguire la vera cognizione delle cose umane e divine, tutti gli uomini hanno ugual diritto a essere ammaestrati nella filosofia e a conoscere l'intero dominio delle scienze. E qui il programma enciclopedistico e volgarizzatore dell'accademico infiammato e la sua finalità educativa è confermata dall'esplicito proposito di non limitarsi semplicemente a tradurre di greco o di latino dottrine e argomenti che potrebbero essere non congeniali alla lingua popolare, ma ad ampliare, respingere, alluminare e agevolare le cose a voglia sua, mirando a fornire degli strumenti di uso facile e immediato, adoperabile da chiunque voglia conseguire la propria filosofica perfezione. Insomma, un'enciclopedia ampia, comprensiva, facile e compendiosa, ad uso di ceti sociali da non molto emersi all'esperienza culturale e affine, per molti sensi, alle proposte esposte negli stessi anni in Francia da Rapp e dai ramisti. Il discorso sull'Accademia degli Infiammati offre una via agevole per trattare subito di un altro ambiente culturale non meno interessante, già che molti indizi inducono a credere che l'esempio offerto dagli accademici patavini non fosse affatto estraneo all'iniziativa di quel gruppo di uomini di lettere fiorentini che nel 1540 costituirono l'Accademia degli Umidi, progenitrice dell'Accademia fiorentina. Ed ha, ritengo, buona ragione il Plaisant, quando, ricordando le vicende, sottolinea la fitta rete di legami e rapporti diretti o indiretti che corsero in quegli anni tra Firenze e Padova, soprattutto per il tramite di Benedetto Varchi, che poi sull'iniziativa dei letterati fiorentini incidessero profondamente le discussioni linguistiche dello Speroni e degli altri infiammati, la loro difesa del volgare come strumento di un sapere enciclopedico, filosofico e scientifico, e il loro insistere piuttosto sulle cose che sulle parole, per estendere e rendere accessibile a un pubblico sempre più vasto conoscenze prima inaccessibili e cosa evidente. Ma più che in questi primi inizi, la vocazione enciclopedica degli accademici fiorentini si rivelò dopo la svolta del febbraio 1542, quando l'Accademia divenne appunto fiorentina e fu saldamente inquadrata nel sistema politico del Principato, secondo gli scopi che si prefiggeva la politica culturale del giovane Cosimo I. Non è certo il caso di soffermarsi su quel tipo di tradizione culturale che l'Accademia riprese e sviluppò, richiamandosi a concezioni sempre presenti nella vita culturale di Firenze sin dai tempi di Marsilio Ficino, sui compiti che si assunse e sui miti storiografici e politici che propose in diretta connessione con i propositi del Duca e dei suoi più abili e autorevoli consiglieri. Certo è che se il Varchi portò tra i suoi colleghi fiorentini frutti di una formazione intellettuale che si era svolta principalmente a Padova e di cui restò sempre traccia nelle sue opere, altri accademici amarono piuttosto richiamarsi ad autori come il Ficino e il Pico, senza ignorare Annio da Viterbo, Cornelio Agrippa e Francesco Giorgio Berto. Ciò ha indotto a parlare in forma troppo riduttiva di sincretismo neoplatonico posto a servizio di un'ottica risolutamente politica, nella prospettiva del consolidamento del nuovo Stato principesco e della ricerca di una sua valida giustificazione ideologica. Ma al di là dei contrasti che subito emersero tra gli accademici, ed è inevitabile contrapposizione da chi come il Varchi avrebbe voluto che l'Accademia si proponesse il raffinamento della lingua fiorentina e toscana, il suo uso scientifico, e chi invece proiettò anche sulla discussione linguistica l'influenza di antichi e nuovi miti esoterici e le loro esplicite implicazioni politiche, resta il fatto che l'Accademia fiorentina fu un centro di elaborazione culturale assai interessante. Non si deve infatti trascurare il fatto che molti accademici coltivarono, oltre ai loro interessi filologici e letterari, anche studi filosofici e scientifici, quando non fecero propri alcuni dei temi più tipici della filosofia della natura del loro tempo e ne recepirono i fondamenti astronomici e astrologici. Non sembra dunque affatto accettabile oggi quella vecchia presentazione dell'Accademia fiorentina come puro luogo di optium letterario e al massimo hortus conclusus riservato ai filologi e puri letterati e ai noiosi e petulanti linguaioli che ancora resiste in certi panorami di maniera del nostro Cinquecento. Non a caso i documenti già noti concordano tutti nel sottolineare, accanto ai temi propriamente letterari e linguistici, la costanza presente di discussioni filosofiche, l'apertura verso le scienze e il richiamo significativo ad autori come l'Alberti, che rappresentavano una tradizione storica segnata dalla stretta connessione tra l'attività letteraria e artistica e la riflessione filosofico-scientifica. Del resto si è già detto del Varchi e della sua cultura filosofica non superficiale e non volgare, ma giova aggiungere che anche tra coloro che nutrivano interessi e propositi ben diversi dai suoi, erano uomini dotati di cognizioni scientifiche e filosofiche e che, come nel caso di Cosimo Bartoli, erano singolarmente attenti a problemi e questioni molto attuali. In effetti, anche la lettura delle lezioni accademiche sui testi poetici di Dante e del Petrarca conferma che l'esegesi degli accademici, meno spesso proprio ad affrontare alcuni temi cruciali della struttura della commedia, per trattare questioni astronomiche, astrologiche, fisiche e matematiche, che permettevano una diretta volgarizzazione di una parte cospicua del sapere del tempo e la sua libera discussione e trattazione. Da questo punto di vista acquista un particolare interesse taluni episodi e dati da considerare con attenzione. Certo può essere del tutto casuale che il Varchi fin dal 39 ponesse a frutto le sue conoscenze matematiche per scrivere a distanza di alcuni amici fiorentini un trattatello nel quale descrisse le proporzioni e medietà delle quali consiste tutta la forza del gioco di Pitagora, servendosi ampiamente di Euclide e di Boezio, e che a simili studi si dedicassero anche Cosimo Rucellai, Carlo Strozzi e Jacopo Vettori. Ma la lettura e il commento di Euclide, un autore che ebbe così grande fortuna nella cultura cinquecentesca e del quale lo stesso Speroni consigliava la lettura, si dedicava anche al grammatico Norchiati in sedute accademiche. E queste considerazioni potrebbero essere ampliate e rafforzate da uno studio sistematico dei rapporti che corsero tra letterati e artisti e i tecnici della corte medicea, così impiegati in quegli anni nell'esecuzione dei progetti militari e civili di Cosimo. Se si vuole però indicare una personalità che illustri meglio di tutte questi aspetti dell'ambiente fiorentino, si può indicare senz'altro Cosimo Varchi. Figura assai complessa di letterato, filosofo, matematico, tecnico, uomo di corte e diplomatico, il Bartoli sembra infatti impersonare meglio e più compiutamente di altri accademici la nuova figura di intellettuale che pone al servizio del Principato le sue vaste conoscenze teoriche e le sue predilezioni culturali senza però mai assumere i tratti più deteriori del costume cortigiano. Tutta la sua attività rivela il disegno di conciliare le discussioni filosofiche e linguistiche con i temi di una filosofia ricca di ispirazioni platonizzanti, ermetiche e cabalistiche, con la tecnica delle arti e la meditazione politica non ignara della lezione del Machiavelli. Mentre è tipico che l'esempio al quale guardò con maggiore insistenza fosse appunto l'Alberti, al quale dovevano avvicinarlo gusti, inquietudini, interessi simili in una prospettiva, indubbiamente. Così ad esempio nel 1944 curava la stampa del ragionamento di Ficino sopra l'amore, ovvero Convito di Platone, nel 1956 pubblicava la difesa della vita fiorentina, della lingua fiorentina del Lenzoni e gli elementi del parlare toscano del fratello Giorgio Bartoli, ma nel 1950 traduceva l'architettura dell'Alberti, che faceva seguire il volgarizzamento del Momus e dei ludi matematici e la raccolta degli opuscoli morali dello stesso autore. Nel 59 poi dedicava a Cosimo un trattato di matematica applicata del modo di misurare le distanze, utile per l'ingegneria civile e militare. E che la sua attenzione per le scienze matematiche fosse viva e costante, lo provano pure la versione delle opere di Orange Spinet, colui che Pietro Ramo celebrava come il maggiore matematico dei suoi tempi. Autore di discorsi storici universali che meriterebbero un discorso a parte, il Bartoli usò le sue cognizioni scientifiche e filosofiche anche nell'interpretazione dei poeti, come dimostrano le sue lezioni accademiche su Dante e poi ancora i ragionamenti accademici sopra alcuni luoghi difficili di Dante, frutto di discrete conoscenze scientifiche, della conoscenza di alcuni testi e dottrine aristoteliche, platoniche, ma anche agostiniane e marziane. È chiaro che il discorso non dissimile potrebbe essere svolto a proposito di altre personalità, che si mostrano nell'ambiente dell'Accademia, a cominciare da un illustre filologo e erudito come Vincenzo Borghini, la cui cultura e mentalità enciclopedica è così vivacemente illustrata dalle sue opere e dai suoi progetti, estesi a tanti domini del sapere del suo tempo. E proprio deriva in mente dal discorso dell'amico Raimondi anche alle arti, la fondazione dell'Accademia delle Arti del Riposo. Cosimo Bartoli trascorse l'ultima parte della sua vita a Venezia, in qualità di agente e oratore medico, e fu anch'egli uno dei tramiti che continuarono a mantenere stretti contatti tra la cultura fiorentina e quella veneziana, cioè tra i centri più attivi della vita accademica cinquecentesca. E a Venezia si sposta nuovamente il nostro discorso per parlare brevemente di un'altra esperienza tra le più tipiche del secolo, sulla quale tornerà appunto la collega Bulzone, cioè l'Accademia della Fama, Accademia Veneziana. Su di essa ha recentemente richiamato l'attenzione degli studiosi Paul Lawrence Rose, benemerito indagatore delle tendenze e tradizioni scientifiche del Rinascimento italiano. Esso merita aver posto in rilievo i forti interessi matematici e fisici di quegli accademici e il carattere di impresa editoriale che si vollero dare alla loro istituzione, dedicata principalmente alla stampa di testi latini e italiani e al volgarizzamento di alcune opere particolarmente significative. L'Accademia, che aveva sede nel palazzo di Federico Badoer, fu fondata nel 1558. All'anno successivo risale la stampa dei capitoli e convenzioni fatte e sottoscritte di propria mano dai signori accademici a D. 13 agosto 1559, un testo molto raro che Rose ha ritrovato nell'unica copia sinora nota alla John Ryan Library di Manchester. Si tratta di un documento molto interessante, perché dimostra tra l'altro non solo la struttura chiaramente enciclopedica dell'Accademia, ma il suo collegamento non solo ideale con la grande impresa antica. Difatti l'Accademia era aperta a chiunque volesse far stampare le proprie opere sotto la sua insegna, purché queste fossero approvate concordemente da tutti gli accademici, e ognuno di essi si obbligava a consigliare, favorire, aiutare con ogni possibile effetto l'opera che sarà proposta da qualsivoglia dell'Accademia. Inoltre gli accademici erano tenuti a partecipare alle riunioni che si svolgevano per discutere dei libri da stampare e stabilire l'andamento economico dell'impresa, la quale, si noti, era retta da tre consigli che si occupavano rispettivamente della scienza, dell'economico e del politico, ossia dell'indirizzo culturale dell'Accademia, della sua gestione finanziaria, e di ottenere e propagare i privilegi di stampa e provvedere all'acquisto della carta. L'Accademia poi si divideva in stanze a seconda delle diverse discipline. Si trattava di una divisione anche fisica, corrispondente ai diversi locali posti a disposizione degli accademici nel Palazzo Badoer. Ma questa suddivisione, che appare del resto molto funzionale e rispondente allo stato del sapere del tempo, le stanze erano infatti quattro, cioè teologia, filosofia, matematica e umanità, e la filosofia era suddivisa in sovrannaturale o metafisica, naturale, logica, medicina e morale, mentre la matematica aveva i cinque rami della geometria, aritmetica, astrologia, musica e cosmografia. Non impediva che le decisioni più importanti dovessero essere prese all'unanimità e che gli accademici dovessero comunicare gli uni con gli altri i risultati dei loro lavori particolari. Infine, un particolare rilievo assumeva la tipografia diretta da Paolo Manuzio, figlio di Aldo, anch'egli celebre editore e continuatore dell'impresa paterna. Gli accademici che sottoscrissero il documento furono Luca Contile, Girolamo Fenarolo, Marcantonio Silvio, Antonio Giraldi, Alvise Arseo, Alvise Giovanni, Giustiniano Badoer, Girolamo Delfin, Marin Grandenigo, Piero Manolesso e Decio Bello Buono. Ma tra essi non mancano anche due nomi particolarmente importanti, quello di Bernardo Tasso, che dell'Accademia fu cancelliere, e Francesco Patrizzi, il più tipico e geniale rappresentante di questa cultura accademica e delle sue predilezioni filosofiche, religiose e dottrinali. Però gli intellettuali che si mossero nell'ambito dell'Accademia Veneto furono assai più numerosi. E basterà ricordare Alessandro Cittolini, Ludovico Dolce, Francesco Sansovino, Celio Magni, Orazio Toscanella, per comprendere che si trattava soprattutto di quei letterati che si raccoglievano intorno alle botteghe degli editori e stampatori veneziani e che avevano trovato un loro più o meno stabile collocazione economica nell'ambito di quella grande attività economica che a Venezia nel Cinquecento fu la produzione editoriale. Ora è noto che anche a Firenze la vita dell'Accademia Fiorentina si era spesso intrecciata con le iniziative tipografiche del Doni, del Torrentino e poi dei Giù, ma l'Accademia Veneziana ha addirittura i caratteri di un'impresa editoriale, condotta secondo un preciso criterio culturale che associa al carattere enciclopedico assicurato dalle varie istanze una tendenza ideologica e intellettuale di fondo sulla quale converrà ancora soffermarsi. Un documento ci permette infatti di valutare con certezza le intenzioni e le predilezioni dell'Accademia della Fama. La Summa Librorum, quasi nonnibus scientis, ac nobilioribus artibus, varis linguis conspicuus, velanti anunquam divulgatus, velutilissimi set pulcherimis escolis, correzionibusque illustratos in lucem emittet Academia Veneta, stampato nel 59 sotto l'insegna della Fama. Ma il testo era stato pubblicato anche in italiano l'anno precedente con la stessa suddivisione, ma alcuni titoli in meno. Non voglio naturalmente tediare i malcapitati ascoltatori con una lunga serie di titoli e autori. Mi limiterò soltanto a ricordare che vi erano compresi autori antichi e moderni, soprattutto di opere scientifiche. Ippocrate e Galeno, Cleomede e Euclide, ma anche Tartaglia da volgare fatto latino, Archimede, Pappo e Proclo, ma anche Regio Montano e lo Stoffer, Tolomeo, Strabone, un compendio di autori di astronomia araba, ma anche i commentatori e interpreti moderni della fisica come il Bocca di Ferro e il Delfino, eccetera, non sto a citare gli altri. Mi sembra però che si debba dare particolare rilievo anche a certi titoli che hanno un'importanza del tutto particolare, per intendere quale fosse la filosofia unificatrice di questi propositi enciclopedici, fedelmente registrati nella scelta dei testi. Così colpisce nella stanza della metafisica la proposta di una versione latina del Pimander e della Spetius, arricchita di commentari che dovevano illustrare il carattere di fonte dei veteri teologi, di un'altra versione latina di Giamblico e di Proco, e di un volgarizzamento di Lattanzio. Soprattutto è rivelatore il progetto di un volgarizzamento della teologia platonica del Ficino, che doveva essere accompagnata dall'edizione del De Armonia Mundi del teologo e cabalista veneziano Francesco Giorgio Veneto, che resta stessa a suo modo un tentativo di enciclopedia neoplatonica, ermetico, cabalistica ed aveva avuto un'indubbia e profonda influenza in diversi ambienti intellettuali e religiosi veneziani. E si può aggiungere che nonostante la condanna dell'Inquisizione, quest'opera ebbe poi una significativa fortuna nella cultura francese, confermata dai diversi documenti e consacrata dalla versione francese di un discepolo del Postel, Guy Lefebvre, della Baudry. Non solo. Come ha rilevato in una sua tesi di laurea ancora inedita un giovane studioso, Luciano Artese, diversi degli intellettuali che si muovevano nell'Accademia erano stati discepoli e ammiratori di Giulio Camillo del Migno, una singolare figura di uomo di lettere cinquecentesco, anch'egli profondamente influenzato dalle opere dello Zorzi, e che aveva proposto nel suo Teatro del Mondo una sorta di enciclopedia visiva e combinatoria, ed era stato non solo un diffusore delle concezioni cabalistiche di idee eterodosse, ma con grande probabilità anche uno dei tramiti tra la cultura italiana e la tradizione logica umanistica renano, fiamminga, poi francese, legata ai nomi di Rodolfo Agricola, Filippo Melantone, Giovanni Sturm e infine Pietro Ramo, che aveva anch'essa una forte coloritura enciclopedica. Non a caso, del resto, nel programma dell'editoriale dell'Accademia Veneziana figurava anche il volgarizzamento del De Invenzione Dialettica dell'Agricola, un'impresa realizzata più tardi nel 67 da Orazio Toscanelli e per gli alberi o tavole sinottiche da Celio Magno, e il Toscanella, un fiorentino probabilmente trapiantato a Venezia, era anch'egli un ammiratore del Delminio e un conoscitore, certo, delle opere dello Sturm. L'Accademia della Fama non ebbe lunga vita né molta fortuna. I documenti pubblicati nel 1838 da Giovanni Rossi mostrano infatti che l'istituzione, nel tentativo di realizzare il suo ambizioso progetto editoriale, finì con l'essere oberata di debiti e che per questa ragione, ma forse anche per altre, il Senato veneziano il 19 agosto 61 ne decretò lo scioglimento. Ma vi sono tracce precise, le quali inducono a pensare che lavori di tipo accademico furono proseguiti da questi stessi intellettuali, specialmente nel palazzo di Domenico Venier, ancora per buona parte degli anni 60, che corsero rapporti di amicizia tra alcuni di loro e l'antico principe degli infiammati, Sperone Speroni. Ed è poi probabile che un'indagine condotta sistematicamente nelle molte istituzioni accademiche cinquecentesche italiane, o almeno in altre non meno importanti come l'Accademia Modenese del Castelvetro del Villenzoni o l'Accademia Bolognese di Achille Bocchi, potrebbe portare alla luce altri elementi molto utili per la nostra ricostruzione e permetter di ricostruire la fitta rete di relazioni, interessi e attività che legò per gran parte del secolo un discreto numero di uomini di cultura, centri scolastici editoriali, ambienti cortigiani e anche quelli universitari, sotto il segno di una comune aspirazione di carattere enciclopedico. Non si spiegherebbe altrimenti perché fossero così frequenti e quasi sempre ad opera di intellettuali accademici i tentativi di elaborare topiche, summe, teatri, palazzi o piazze di carattere mnemotecniche universali, come quelli davvero tipici compiuti dal Cittolini o dal Garzoni, lungo una linea che conduce in fondo sino alle prime opere di Giordano Bruno. Ne sarebbe facile comprendere, perché anche i tentativi più interessanti di rinnovare l'antica Imago Mundi, richiamandosi a tradizioni o a idee che si erano sviluppate già nel mondo antico al di fuori della duplice linea dottrinale platonica e aristotelica, fossero anch'essi compiuti da chi, come il Teresio, era estraneo alla disciplina delle scuole, conduceva la sua ricerca al di fuori delle istituzioni ufficiali e doveva farsi egli stesso promotore di un'organizzazione di tipo accademico, l'Accademia Cosentina. D'altra parte, non è un caso che della tradizione enciclopedica, così viva e presente nelle accademie cinquecentesche, si facesse interprete promotore o intellettuale che aveva operato anch'egli negli ambienti accademici e il cui nome abbiamo già incontrato, Francesco Patrizi d'Acquero. Gli studi sempre più organici e sistematici che si stanno svolgendo su questo protagonista della cultura italiana tardo cinquecentesca hanno ormai appurato non solo i suoi stretti legami con il mondo intellettuale veneziano, fu ammiratore e editore di Giulio Camillo, sentì egli pure l'influenza di Francesco Giorgio Veneto, partecipò all'Accademia della Fama e rimase anche dopo il suo lungo soggiorno a Cipro e la sua avventura spagnola in buoni rapporti di amicizia con il Contile, ma anche la sua adesione a quelle dottrine ermetizzanti ed esoteriche che erano le più diffuse negli ambienti accademici e il progetto di elaborare una filosofia enciclopedica in evidente antagonismo con le dottrine consacrate dalle scuole e dalla tradizione peripatetica. A questo proposito, per tenersi soltanto a dati incontrovertibili, si dovrà osservare che anche la sua grande poetica, che ora possediamo finalmente in un'edizione comprendente le idee che rimaste a lungo inedite, presenti in realtà, l'ha notato finemente la Bulzoni, un sistema o enciclopedia totale di tutte le forme e generi poetici possibili, legati anche a tassonomie di vicina ispirazione realista, che tende però a trasformarsi in una filosofia della storia e insieme nella presentazione sistematica di molti altri aspetti e forme del sapere. Anche la sua amplissima e, come pensava Giordano Bruno, pedantissima distruzione della filosofia peripatetica, le peripatetiche discussiones, è a suo modo una controenciclopedia perché mira a dissolvere pezzo per pezzo e con minuziosa insistenza il sistema del mondo che da almeno 3 secoli era al centro del sapere scolastico. Ma senza dubbio, la conferma che il Patrizi mirasse a realizzare molti dei propositi impliciti nel lavoro delle accademie e offerto dalla sua opera maggiore, la Nova De Universis Philosophia del 1591, che è una vera e propria enciclopedia o sistema del mondo fondata sui principi platonici ed ermetici e proposta addirittura come il nuovo fondamento di una rinnovata filosofia unitaria capace di sanare tutte le fratture e i conflitti religiosi e politici. Il filosofo chersino, già così legato alla corsa estense, poi per volere del duca professore dello studio ferrarese, e chiamato addirittura nel 1592 alla Romana Sapienza, non esitò a proporre al Papa di sostituire con questa enciclopedia le pericolose e perfide dottrine peripatetiche e fondare su di essi la riconciliazione di tutti i cristiani nel segno di una sapienza davvero assai più ermetica che ortodossa. E comunque molto vicina alle aspirazioni filosofiche e religiose di quelli intellettuali, che erano stati i più tipici animatori di molte istituzioni accademiche cinquecentesche, come la stessa Accademia della Fama o la Pavese Accademia degli Affidati. Del resto, Anche la formazione, la carriera letteraria e poi anche magistrale del Patrizi, per molti sensi un autodidatta legato piuttosto al mondo dei letterati che a quello dei magristi, ma divenuto alla fine professore nello stesso studio della capitale della cattolicità, possono essere considerate come un esempio della profonda trasformazione del ruolo della figura dell'intellettuale, ormai avviato a cercare altre vie di espressione e diffusione delle proprie idee che non fossero quelle più tradizionali, ma al tempo stesso volta ad ottenere quel riconoscimento da parte della comunità dei dotti e degli stessi poteri politici e religiosi che era necessaria per affermare la propria visione del mondo. I teologi del Santo Uffizio intesero benissimo quali erano i pericoli che si celavano dietro questa enciclopedia ermetico-neoplatonica che conteneva tanti temi eversivi della stessa tradizione culturale sulla quale si era ormai attestata anche la scienza dei divini. E non esitarono, come avevano già fatto per il De Armonia Mundi di Francesco Giorgio, a condannare la nuova De Universis Philosophia. Ciò non impedì che questo libro continuasse a circolare, grazie anche agli spedenti illustrati da Paola Zambelli, sia in Italia sia soprattutto in Francia e in Germania, e che il Patrizi avesse il suo posto di onore nel Pantheon dei Novatores, ai quali si richiamavano e continuavano a richiamarsi ancora in pieno Seicento i sostenitori di un integrale rinnovamento del sapere. Non è certo qui il caso di parlare della fortuna europea del Patrizi e neppure della costante presenza del suo nome, magari anche in dissenso, ma sempre con interesse, nei testi di Bacone e dell'Oars, del Comenio, di Charles Sorel, e di altri tipici rappresentanti dell'enciclopedismo seicentesco. Si dovrà però almeno sottolineare che la nuova De Universis Philosophia, opera così legata a temi prediletti della cultura accademica, fornì addirittura una terminologia enciclopedica e pansofica destinata ad essere ripresa quasi alla lettera dal Comenio nei suoi programmi più arditi e nei suoi più avanzati testi pansofici come la stessa Concordanza Cattolica. Non basta, perché molti aspetti che erano stati propri della cultura accademica cinquecentesca e che del resto continuavano a perpetuarsi in istituzioni ben presenti e operanti nei decenni a cavallo tra la fine del Cinquecento e gli inizi del nuovo secolo, continuarono ad esercitare un'influenza profonda e a fornire modelli ed esempi a chi mirava non solo a rinnovare i metodi di conoscenza, ma arricchire, estendere e soprattutto diffondere sempre più il sapere mediante la collaborazione di dotti di tutte le discipline, di letterati e scienziati, di tecnici e artisti. Nel 1602, mentre nel fondo della sua prigione napoletana dava forma all'immagine utopistica della città del sole, Tommaso Campanella ne descriveva l'organizzazione scientifica sottoposta alla guida di un supremo reggitore, Sinno Sapienza, in termini che non possono non far pensare appunto all'organizzazione di certe accademiche cinquecentesche e mettiamo addirittura alle usanze dell'Accademia della Fama. Spettava infatti alla Sapienza la direzione di tutte le arti liberali, meccaniche e scientifiche, e anche quelle dei loro rispettivi magistrati, dottori e scuole di istruzione. E i magistrati erano appunto l'astrologo, l'ismografo, l'aritmetico, il geometra, l'istoriografo, il poeta, il logico, il retore, il grammatico, il fisiologo, il politico e il morale, il cui compito consisteva nell'approntare un unico libro del sapere, nel quale con meravigliosa chiarezza sono iscritte tutte le scienze. E il Campanella proseguiva a spiegare come fosse ancora compito dello stesso Sin far conoscere al popolo le verità scoperte dai sapienti utilizzando un ingegnoso procedimento mnemonico fondato sull'uso delle immagini in modo da tracciare sui muri della città una compiuta e facile enciclopedia visiva del sapere. Il procedimento non può non ricordare il singolare tentativo di Giulio Calvino e il suo Teatro del Mondo. Poi, più di 20 anni dopo, uno dei massimi filosofi seicenteschi, Francis Bacon, delineando un'altra utopia volta ad esprimere la sua concezione dell'avanzamento della scienza e il suo progresso verso la realizzazione di ogni possibile obiettivo, tornava a descrivere l'opera comune svolta dai dotti raccolti nella casa di Salomone con parole che hanno indotto già altri studiosi a richiamarsi agli usi e ai procedimenti delle accademie, certamente trasfigurati nell'esaltante prospettiva di una riforma totale, necessariamente enciclopedica del sapere, che impegnasse tutti gli uomini di cultura nella ricerca della verità, nell'utilizzazione pratica e benefica della conoscenza, nella continua ricerca dell'unità metodica e sempre nuova di tutte le scienze. Ma questo progetto ideale stava diventando una realtà concreta e effettuale, nei rapporti di tipo davvero e accademico, che univano ormai tra loro le personalità e gli ambienti scientifici più avanzati di tutta Europa, nell'opera di quei dotti che come Nicolas Fabry de Peresch o il padre Marin Mersenne e tanti altri uomini di lettere, scienziati, eruditi e filologi italiani, francesi, inglesi, olandesi e tedeschi, tenevano le file di una repubblica delle lettere che non conosceva confini o divisioni religiose o politiche o diversità di curriculum. E in effetti continuavano a sorgere non solo nelle varie capitali dell'intelligenza europea, ma anche nei centri minori e periferici, collegi o istituzioni accademiche di vario genere, sempre caratterizzate dal perseguimento di esperienze scientifiche originali, dalla ricerca di metodi nuovi, dal comune interesse per le nuove dottrine filosofiche e scientifiche, nate al di fuori delle istituzioni ufficiali o addirittura contro di esse, e da una concezione del sapere sempre più ricca di significati anche religiosi e politici. L'esempio dell'Accademia dei Lincei, che citava proprio Diana, sorta a Roma nel 1603 per iniziativa del giovanissimo Federico Cesi, con lo scopo di propagare le dottrine dei novatori e soprattutto concezioni e idee connesse all'insegnamento di Galilei, è certo e più certo. Quando leggiamo nei primi diplomi di nomina che i suoi detti si impegnavano a farsi discepoli della natura, per ammirare i suoi portenti e ricercarne le cause, per leggere il gran libro che Dio ha aperto agli occhi di tutti gli esseri forniti di intelletto, è chiaro come il programma dei Lincei facesse proprio, ma con nuovo rigore scientifico, e un'idea meno libresca del sapere, quella profonda esigenza di ricerca unitaria e comune che stava alle origini di molte accademie cinquecentesche, dei loro più arditi progetti e dei loro proposte di diffusione del sapere. E come ricordava sempre Raimondi, anche qui, la connessione tra sapere filosofico e scienza naturale, tra la scrittura, l'espressione, la filosofia e l'ornamento della filologia, era totale. Della vocazione enciclopedica della tradizione accademica e dei suoi fini più radicali e innovatori, doveva del resto certamente ricordarsi nel 1636 un dotto boemo che nella sua giovinezza aveva ben conosciuto le opere del Patrizio e del Campanella e ammirati i propositi dei novatori. Jan Amos Komenski, il Comenio, quando stendeva nel Pansofi e Protomus un manifesto per la riforma del sapere e delle scuole, e lo concludeva con l'invito a tutti i sapienti del tempo affinché si unissero allo scopo di costituire finalmente l'unità organica e necessaria del sapere e per mezzo di essa restituire la pace, la concordia e il comune riconoscimento dell'ordine del mondo in una società divisa dalle più feroci intransigenze e da lotte sempre aspre da fuori. La pansofia, parola che riecheggiava termini e usi linguistici già tipici dei patrizi, era appunto la grande utopia alla quale quest'uomo, che dalla ferocia del suo tempo era stato un'illustre vittima, affidava la sua intensa vocazione profetica e l'attesa di un vicino mirabile avvento destinato a riportare nel mondo degli uomini il sommo bene della pace e della comunità. Con la stessa intenzione, un altro esule, Samuel Hartley, agli inizi della grande crisi politica inglese, inviava nel 1640 al Long Parliament un altro scritto utopistico, A Description of the Famous Kingdom of Macaria, ove di nuovo campeggiava la proposta di ispirazione comeniana di istituire un collegio accademico di sapienti, destinato appunto ad operare la riforma universale del sapere per assicurare a tutti gli uomini una conoscenza totale e un destino libero e pacifico. Si trattava certo di miti e di sogni che la realtà delle lotte politiche e sociali avrebbe presto duramente smentito, ma anche in essi continuava a vivere e operare quell'idea dell'unità e totalità del sapere che almeno per tutto il secolo avrebbe continuato a ispirare l'opera di filosofi, scienziati, teologi, curiosi ricercatori, spiriti spregiudicati e più uomini di chiesa, impegnati a costruire le ultime immani enciclopedia, prima dell'avvento della nostra età dei dizionari. Grazie. Ja, herzlichen Dank, Herr Vasuli. Nun muss ich eine organisatorische Bemerkung machen zunächst bei diesem imponierenden, stoffreichen Überblick über die enzyklopädische Tradition. Ist es sehr schwer, bei dieser rhetorischen, perfekt rhetorischen, raschen Sprechweise für alle, für die anderssprachigen, wirklich mitzukommen. Es waren so viele Ansatzpunkte. Zunächst auf einen kleinen Überblick, eine kleine Zusammenfassung wird Herr Röck geben. Ja. Mit den natürlich gerade gemachten Vorbereitungen, ja. Kurz und summarisch zusammenfassen, was ja hier sehr viel umfangreicher und stoffreicher vorgetragen wurde. Der Ausgangspunkt war, soweit ich das verstanden habe, ich bitte Sie mich dann zu verbessern, wenn ich etwas Falsches zusammenfasse, dass die Akademie des 16. Jahrhunderts aus dem Geist des Humanismus entsteht, gegen die Traditionen der Scholastik, und man kann hier Verbindungen zeigen, die sich an alte enzyklopädische Traditionen des späten 15. Jahrhunderts anknüpfen. Das kann man, wurde exemplifiziert am Beispiel Giovanni Dinkos oder von Agnolo Poliziano. Nicht nur die wichtige editorische Leistung, die etwa in Venedig durch Aldo Manuzio vollführt wird, sondern auch der Versuch, in diesen Akademien Intellektuelle zu versammeln, die diskutieren, die alle Wissensgebiete der Zeit behandeln, wird genannt etwa Philologie, Philosophie. Es werden die Techniker, die Theologen, die Künstler oder Handwerker, wie man sagen muss, hier zusammengebracht, die nun, und das ist später in Padua sehr wichtig, auch in Bulgare sich unterhalten. Also nicht die lateinische Sprache, die Gelehrtensprache vorwiegend pflegen, sondern die direkt in italienischer Zeit Kenntnisse zu vermitteln versuchen. Diese Akademie von Padua, die Accademia degli Informati, stand im Mittelpunkt der Darstellung neben Venedig, in intellektuellen Kreisen, nicht allein, sondern auch in weiteren Kreisen, wurde hier enzyklopädisches Wissen verbreitet, eben vermittelt durch die italienische Sprache. Da wäre etwa als Beispiel Alessandro Piccolomini zu nennen, der versuchte mit einem groß angelegten Projekt dieses Programm einer Gesamtdarstellung der Wissenschaften zu realisieren und diese Wissenschaften zu verbreiten. Das heißt, immer die Aufgabe des Enzyklopädisten dabei, einerseits eine Einheitlichung durchzuführen, weiterhin eine Vereinfachung natürlich in der Enzyklopädie und drittens eben der Versuch, dieses Wissen durch die Vermittlung dann auf der nationalen Sprache weiter zu verbreiten. Neben Padua 1539 wurde diese Akademie gegründet, wäre vielleicht als wichtigstes und bekanntestes Akademieprojekt und das wurde deswegen auch nicht in aller Breite ausgeführt, Florenz zu nennen. Florenz, ein Zentrum der Akademiebewegung des 16. Jahrhunderts, wo es nicht nur Diskussionen gab über philologische und literarische Probleme, sondern auch über philosophische, wissenschaftliche Fragen, wo man als vielleicht typischen Vertreter und als wichtigsten Mann natürlich hier Cosimo Bartoli in den Mittelpunkt der Darstellung brachte. Bartoli, der den Typus des Enzyklopädisten hier darstellt, Universalgeschichte betreibt, logische Ansätze verfolgt und darstellt. Man kann, und auch das kann ich hier ja nur in einem Satz zusammenfassen, mannigfache Verbindungen, kulturelle Verbindungen sehen zwischen Venedig und Florenz. Und mit Venedig kommt man nun, so habe ich es verstanden, auf einen besonders eindeutigen, einen besonders typischen Fall an der Venezianischen Accademia della Fama, wo man an einem groß angelegten Projekt arbeitet. Francesco Patrizzi da Cherso ist zum Beispiel zu nennen, der hier versucht, die Ideen seiner Zeit in einem Gesamtwerk zusammenzufassen. Er steht in der neuplatonischen Tradition und versucht nun sein Werk gegen das bisherige hergebrachte System der scholastischen Peripathetik zu stellen und will versuchen, eine definitive, eine exakte Vereinheitlichung der philosophischen Traditionen und religiösen Formen seiner Zeit zu vollführen. In seinem Buch Nova de Universis Philosophia, in diesem Versuch einer pansophischen Betrachtung, einer Zusammenfassung des Wissens seiner Zeit, begegnet uns hier der typische Fall. Ungeachtet der Verurteilung durch den Vatikan, durch das Santo Pio, hat dieses Werk in vielen Bereichen Einfluss gewinnen können und hat auch Einflüsse auf die spätere Zeit ausgeübt, wie die anderen Projekte, die hier betrachtet wurden, auch diese Linien, die dann weitergezogen werden können zu Giordano Bruno, Campanella, Bacon, wurden am Schluss des Referates gezogen. Das wäre also ein kurzer Versuch mit vielen Auslassungen natürlich. Es ist von deutscher Warte her sehr überraschend eigentlich, dieses Bild der Akademie zu hören. Es hat sich ja ziemlich stark eingebürgert von einer vorwiegenden philologischen Ausrichtung der Akademie Italiens nach dem Aufschwung in Florenz der platonischen Bewegung, aber dann doch den philologischen Teil zu betonen, die Akademie in Florenz oder das große Gemeinschaftsunternehmen ist ja dann schließlich auch ein Lexikon der toskanischen Sprache. An unserer Veröffentlichung sind wir von der Akademie als solcher nicht bekannt. Akademiker haben veröffentlicht. Und hier in Florenz, in dieser staatlichen Akademie, war ja ein Personalverbund zwischen Akademie und Universität. Hier kommt ja ein neues Element hinein. Es fällt also auf Leibniz-Urteile, zitiert man ja immer wieder, dass die italienische Akademie rein philologisch ausgerichtet werden. Was mir nun auffällt aus deutscher Sicht, und Sie haben ja einige deutsche Namen genannt, etwa Melanchthon. Melanchthon ist in Deutschland eben kein Akademiker in dem Sinn, sondern er geht an die Universität. In Deutschland wird das Bildungssystem wieder zusammengeführt, die Sozietätsbewegung, Versandes, Kenntnis bekommt einen Lehrstuhl in Wien, Melanchthon in Wittenberg und so weiter und so fort. Und dadurch bekommt der Humanismus in deutscher Entwicklung einen sehr viel stärkeren, herkömmlich universitären und auch scholastischen Charakter. Von dem aus gesehen, die italienische Akademiebewegung mit ihrer Arbeit in Bulgare etwas Unprofessionelles an sich hat. In Deutschland geht die Entwicklung sehr stärker akademisch und langfristig auch fachwissenschaftlich voran. Etwa die Jurisprudenz, die Fachtheologie gewinnt ein neues Gewicht. Es wäre beinahe unmöglich, sich auf den literarischen Markt zu begeben in Deutschland mit einem Werk, das so umfassend Philologie und Philosophie und Medizin und Archimechanische Künste und Medizin umfasst. Hier, glaube ich, liegt ein Punkt, der besondere Beachtung verdient, weil hier offenbar im 16. Jahrhundert im italienischen Bereich ein Dualismus Universität und Akademie aufrechterhalten bleibt, während die humanistische Bewegung in Deutschland in eine schulisch-universitäre Bewegung einmündet. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung. Es scheint ja so, das Heilige Amt, das über den Glauben in Rom wachte, hat ja entsprechend reagiert, dass auch in Italien vom Inhaltlichen her dieser Dualismus sich herstellte, dass ja auch die italienische Universität, jedenfalls soweit ich sie kenne, den Aristotelismus wiederherstellte in einer strikten Form, dass vor allem etwa im Bereich der Universität, der auch der Modus Parisiensis übernommen wurde, sodass also auch in Italien, was in Deutschland zusammengeführt wurde, in einen Strom, in Italien in zwei organisatorisch und inhaltlich getrennten Strömen weitergelaufen. Habe ich in dieser Weise vielleicht den Punkt der Diskussion zwischen deutscher Warte und Ma rapidamente cerco di riassumere rapidamente per quello che sono riuscito a intendere io. Prima ha sottolineato questo elemento così fortemente filologico che compare in tutta la ipotesi enciclopedica, per così dire, come è stata presentata da Vasoli nella tradizione cinquecentesca. A questo punto c'è una distinzione molto forte che sembra porsi dentro la tradizione italiana, come è stata descritta, rispetto a quella tedesca. Mentre nella tradizione italiana è possibile una divaricazione tra università ed accademia, e il mondo accademico stabilisce, ha un'iniziativa propria attraverso la quale può svolgere tutta una serie di programmi e arrivare persino a situazioni editoriali, nel mondo tedesco la cosa è impossibile, tutto convoglia invece dentro l'università, dove viceversa poi si torna di nuovo a specializzare, essendo quindi impossibile un disegno immediato panzofico come quello che avevi a questo punto descritto. Allora si direbbe che rispetto anche alla revisione, chiamiamole così, dell'aristotelismo, mentre nel mondo tedesco tutto torna ancora dentro la realtà universitaria, nel mondo italiano di nuovo si possono stabilire diverse collocazioni. Grosso modo direi è questa la... Ma sono in gran parte d'accordo. La forte connotazione filologica che hanno gli accademici è una derivazione umanistica. Solo che, ecco, questo è il punto, la filologia umanistica nel corso del tardo 400 e poi del 500 tende ad estendersi sempre più a campi del sapere che non erano stati prima toccati, cioè alle scienze, il dominio delle scienze, cioè c'è l'esigenza di una revisione filologica anche del patrimonio scientifico dell'antichità. Questo è già evidente in qualche misura proprio nel 400 stesso. In fondo Poliziano si occupa di testi di medicina, si occupa di testi di diritto, no? Cioè c'è la volontà di una reinterpretazione e di una revisione filologica proprio di tutta la tradizione antica. Cioè si filtra attraverso la filologia umanistica non più soltanto il materiale letterario, ma anche quello filosofico e scientifico. Ecco, su questo punto mi pare che occorrono due precisazioni. La prima, del resto è anche ovvio, specialmente dopo anche i lavori di Rose e di altri studiosi, è il grossissimo contributo della filologia umanistica al recupero della scienza antica. Cioè una larga parte del rinnovamento scientifico passa attraverso il ritorno di testi del pensiero scientifico classico, ignoti ai medievali o conosciuti in tradizioni deformate. Il caso fondamentale studiato ora molto è quello di Archimede. Noi sappiamo benissimo ce lo insegna il nostro amico Maccagni, che di queste cose è sempre stato il tenitore e che ha sempre sostenuto la necessità proprio di studiare anche questa parte, e dico, non si capisce per molti aspetti la nascita della scienza galileiana senza il ritorno di Archimede e di quel particolare Archimede rivisto dagli umanisti. Del resto tutta la revisione dei testi matematici, anche qui il lavoro di Rose è fondamentale, avviene attraverso tecniche filologiche umanistiche. Secondo punto, ecco, giustamente è stato posto in luce, mi pare esatto, indiscutibile, la diversità della situazione tedesca, ma si spiega bene perché l'università viene riformata in Germania, cioè ha luogo la grande riforma melantoniana, in fondo, dell'università, no? Melantone opera veramente una trasformazione, in qualche modo, della struttura dell'università tedesca, sulla base umanistica. E la famosa, quella celebre prolusione che Melantone tiene, mi pare proprio a Wittenberg, ora non ricordo la data, in cui parla proprio della rinascita umanistica, vero? Come progenitrice addirittura della rinascita religiosa e quindi del modello di riforma di tutto il sapere. E quindi la nuova università è un'università in cui l'elemento umanistico è molto forte. Ma ecco, questo è un punto da considerare. La presenza umanistica non è del tutto estranea all'università anche italiana, ecco, questo perché è presente anche in Italia. Solo no, non ha portato al rinnovamento e alla ristrutturazione dell'università come in Germania. Gli studi humanitatis sono anche nell'università, ma in una situazione certamente subalterna. Però, ecco, se noi andiamo a vedere come avviene la riforma dell'aristotelismo a Padova ha avuto luogo nel 500 un rinnovamento profondo dell'aristotelismo. L'aristotelismo padovano del 500 non ha niente a che vedere con l'aristotelismo scolastico. Ha poco a che vedere con l'aristotelismo della tarda scolastica, cioè con l'aristotelismo trecentesco o duecentesco. È un nuovo aristotelismo che è passato anch'esso attraverso proprio la filologia umanistica, cioè attraverso un recupero, intanto attraverso il fatto che si insegna Aristotele in greco, si insegna nella sua lingua. Lo si insegna avendo presente tutta la grande massa dei commentatori greci e bizantini, che sono stati ricostruiti in maniera filologica. C'è una tendenza fortissima a Padova, poi a vedere anche Aristotele nel complesso di una tradizione, non più soltanto Aristotele, ma l'intera tradizione peripatetica. E d'altra parte, però, l'aristotelismo rimane molto forte anche in Germania, fortissimo, perché Melantone è un aristotelico con interessi filologico-umanistici, ma è un aristotelico. Però, ecco, quello che a me pare significativo e che chiarisce bene la differenza della università tedesca e di quella italiana è che mentre in Italia la struttura però fondamentale dell'universo del sapere rimane in fondo quella molto tradizionale, tutto sommato aristotelica, affidata ai vecchi curriculi, eccetera, in Germania è proprio l'università che diventa il centro dell'enciclopedismo. Herborn, no? Perché Halstein, Hirmel, Martini, eccetera, tutto il movimento enciclopedico in Germania proprio prende campo nell'università protestante riformata, però, perché quella è in gran parte l'università protestante, e di influenza melantoniana. E il movimento nasce proprio di lì, del resto dico lo stesso Comenius, è studente Herborn, oltre che a Heidelberg, e si è formato proprio negli anni tedeschi. E la circolazione di testi, come quello per esempio, come la nuova De Universis Philosophia, è notevole proprio negli ambienti universitari tedeschi, perché per esempio Asted la conosce e se ne serve, la conoscono altri, quindi c'è stata una forte anche assimilazione di elementi, direi anche extra universitari italiani, cioè di elementi anche di questa tradizione accademica italiana. Sono iscritti tre da questo punto: Bolzoni, Quandam, Benzoni. Quindi il professor Vasoli ci ha proposto sotto la categoria dell'enciclopedismo un quadro molto ampio, pensando alla vita di accademia italiana, sono italiani, diciamo, tra il 4 e il 600. Ecco, ora io vorrei provare a vedere, rispetto a questa categoria unificante dell'enciclopedismo, anche alcuni elementi di tensione, di contraddizione interna, che ne vengono in vita alcuni, naturalmente non dico molto sommariamente e schematicamente. Ecco, il primo è, per me, da questo punto di vista, di sollecitare anche il professore Raimondi, il rapporto che nell'interno di questo modello si pensa di instaurare diciamo, tra la letteratura, tra la scrittura letteraria più in generale, e diciamo contenuti filosofici, scientifici, eccetera. Ad esempio, è vero che Erasmo ha i collegamenti che il professor Vagoni ricordava con Manzetti, eccetera. D'altra parte sappiamo però che Erasmo poi è anche evidentemente segreto nei confronti di questo ambiente, non solo, ma che nel ciceroniano c'è un attacco violento al ciceronianesimo, anche se per motivi lui comprensibili tende a specificare che non ce l'ha con Bembo, ma con gli altri personaggi. E la cosa interessante, almeno mi sembra, dal punto di vista della questione che io ponevo, è che tra i motivi polemici contro il ciceronianesimo è che, appunto, Erasmo dice che i ciceroniani sono pagani. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che lui vedeva dietro, diciamo, questa adozione totalizzante di modelli letterari in realtà passare appunto contenuti di altri tipi. Ecco, così sul terreno della retorica, appunto Speroni, l'Accademia degli Infiammati, il nuovo posto del Volgare, diciamo, in questa nuova organizzazione enciclopedica del sapere. D'altro lato però Patrizzi, che conosceva benissimo Speroni, che aveva studiato Padre, eccetera, non è certo sulle posizioni di Speroni, dice esplicitamente, appunto nei dialoghi della retorica, di non riconoscersi in nessuna delle posizioni anche a lui più vicine. Altra questione che mi sembra possa introdurre un elemento diciamo, di tensione, di contraddizione in questo modello unitario di enciclopedismo è proposta, mi sembra, appunto dal rapporto tra l'Accademia Fiorentina e l'ambiente padovano. Questione molto interessante, a me sono piaciuti molto anche gli scritti di Marco Curati, ad esempio, su queste questioni. E tra l'altro proprio Plaisance, secondo me, ha fatto vedere molto bene, anche se non tutto poi è condivisibile, che accanto appunto all'influenza e al ruolo che anche il professor Vasoli ricordava, di questi ex esuli toscani che poi tornano, e tornano portando la ricchezza dell'esperienza nuova, culturale, appunto fatta nel Veneto, in particolare nel rapporto con l'ambiente e padovano, ecco, questo influsso nell'Accademia Fiorentina è importante, ma crea anche le relazioni. E questo è l'aspetto culturale che va visto accanto a quello più politico, diciamo più repressivo, oltre che organizzatore di Cosimo. E anche qui entrano in gioco una serie di questioni molto complesse, perché l'elemento di tensione qual è? È sull'uso del volgare? No, perché anche l'asca, i lumi, eccetera, anche, no? È su un diverso tipo di visione proprio della letteratura, di tipo di poesia. E non solo, ma forse, che questo però sarebbe da verificare, è anche verso un'apertura al nuovo più apparente che reale, io credo. Perché ad esempio, quando il Varchi commenta la Divina Commedia e ne fa occasione, come giustamente diceva il professor Vasoli, per introdurre e quindi anche per divulgare una serie di contenuti filosofici, scientifici, eccetera, però come lo fa? Lo fa partendo dal passo della Divina Commedia che implicitamente, secondo lui, contiene tutto, no? Contiene anche gli sviluppi successivi della scienza. Quindi, ora, quanto questo sia, come dire, occasionale, quanto questo sia solo capitolo, non lo so. Io tenderei piuttosto a prenderlo sul serio, cioè a credere che appunto c'è un'apertura verso il nuovo che però viene sempre riportata in una struttura già fortemente codificata e già data. Tra l'altro, ecco, sarebbe da fare una ricerca anche qui semantica, proprio sul termine luogo. Luogo, quando Vanti dice luogo, la Divina Commedia, certo luogo è il passo, però diventa una specie di luogo dell'arte della memoria, perché lì c'è dentro tutto, no? C'è dentro tutto anche le cose che dice. Ecco, e forse anche su questo, quindi, c'è uno scontro, nell'ambito appunto di questo tendenza enciclopedica, di questa rivalutazione del volgare. Però è poi interessante perché l'asca è tra coloro che fondono poi l'Accademia della Crusca, no? Quindi sono questioni aperte piuttosto complesse, a mio parere. Un ultimo problema, è vero, indubbiamente, trovo molto suggestive le cose che diceva il professor Vasoli sulla città del sole, sull'organizzazione che sembrerebbe ripetere da certi aspetti appunto il modello dell'Accademia. Però anche qui, pur nell'interno, io penso appunto di questo elemento unificante, ci sono elementi di forte differenziazione. Perché, ad esempio, la città del sole è fortemente legata alle poesie. Ora, sia nelle poesie, diciamo, proprio come ricerca espressiva, sia nella riflessione di Campanella, c'è un rifiuto che è segreto. C'è un rifiuto della sapienza di posta accessibile a pochi, che aveva caratterizzato invece lungamente la vita appunto, no, di certi gruppi che alle accademie si rifanno. Ed invece appunto è vero che appunto questa enciclopedia rappresentata visivamente sui muri della città del sole si rifà per tradizione, però è disponibile a tutti. Cioè, tutti i bimbetti devono vedere queste cose e così via. Quindi appunto è una versione fortemente utopica, diciamo, di una cornetta a cui allo stesso tempo Campanella si rifà ma cerca di ribaltare. Ecco, quindi queste cose volevo dire perché per verificare, ecco, accanto a questo elemento di continuità, appunto anche elementi di tensione e di contraddizione che mi sembra ci siano. Sì, le contraddizioni sono sempre. Scusa, forse converrà una risposta globale. Io non so. Forse. Preferisci rispondere forse meglio rispondere. Sì, dico, allora, le contraddizioni sono sempre dovute, è ovvio, tradizione c'è dovunque. Ma dico, il rapporto tra letteratura, a me mi sembra che abbiamo un po' troppo insistito sempre sulla caratterizzazione proprio letteraria degli accademici. Io su questo dissento, gli accademici non sono stati. Naturalmente si capisce il fondamento, direi la parte forse più apparente era quella letteraria. Era anche uno schermo in molti casi, secondo me. Presentava un ottimo schermo perché quando si discute di questioni letterarie, ce l'ha insegnato il ventennio fascista, si può dire tutto. Le questioni letterarie sono giudicate sempre da tutti i regimi come del tutto così, non pericolose, quindi si lascia parlare di letteratura. E molte volte però si dicono cose attraverso la letteratura, abbastanza singolari. Ora, io non è che condivida in tutto certamente il libro di Simoncelli, che mi pare errato nella impostazione generale, ma ha degli aspetti interessanti. Però certo questa gente si serviva delle lezioni su Dante per divulgare il beneficio di Cristo, su questo non c'è dubbio. Il mio scolaro ha trovato molte più citazioni del beneficio di Cristo in Bacco, questo dopo che il beneficio di Cristo era stato già duramente attaccato. Quindi bisogna andare sempre cauti. La letteratura molte volte è un ottimo strumento per divulgare idee, posizioni, eccetera. E naturalmente si capisce che presentarle come associazioni di letterati era in fondo anche un modo abbastanza utile per difendere. Sulla questione appunto Erasmo-Ciceronianesimo, siamo d'accordo, l'attacco contro Ciceronianesimo è chiaro, ed è soprattutto un attacco, però direi più che contro gli ambienti veneziani, mi pare contro gli ambienti romani, cioè contro il mondo. Sì, sì, ma Erasmo prende sempre in giro tutti, e anche spesso ragione, prende in giro, anche se spesso. D'altra parte la sua influenza proprio negli ambienti accademici risulta molto forte, perché mi pare che quegli studi che ha fatto la Zeidel-Menti si vedano come proprio in questi milieu accademici, in fondo Erasmo, anche se taciuto, anche se magari contraddetto sul campo magari letterario, poi però ha un'influenza profonda ideologica, e insomma la sua presenza c'è. C'è molto forte, anche se c'è la polemica anticiceroniana, eccetera, però insomma, anche persone che sono contro Erasmo sulla questione ciceroniana, poi magari ne sentono fortemente l'influenza sulla posizione ideologica, sulle polemiche di tipo ecclesiastico, cioè qui sono dei campi abbastanza differenziati. Oh, sì, la questione dei Patrizi, certamente. Patrizi finisce con lo scrivere in latino. Questo è significativo perché Patrizi scrive molto anche in italiano, Folgate. Scrive in latino, in fondo poi perché? Lo scrive nel momento in cui però passa la posizione accademica, in cui a me sembra molto significativa la traiettoria del Patrizi, perché è un caso quasi unico, se ci pensiamo bene, cioè di un intellettuale che non ha studi accademici regolari, che non è passato attraverso l'università, no? Che non è arrivato mai a diventare un dottore, che a un certo momento attraverso la via delle accademie proprio arriva a entrare nelle università e addirittura nella Sapienza romana. Naturalmente allora scrive in latino, sì, anche perché vuole conquistare, proprio c'è una, un preciso progetto di conquistare, però la, la sua poetica la scrive in italiano, la scrive, cioè dico, c'è un doppio registro. E mi pare che però l'interesse proprio per il volgare ci sia anche in lui, proprio anche come possibilità di diffusione, ora che poi poi passi però alla scrittura latina, dopo questo è anche vero. Però dico, quello che mi premeva nel caso del Patrizio, mette in luce come in fondo lui proprio tenta di dare una struttura enciclopedica effettiva, completa, no? Nella sua opera, queste tendenze e manifestazioni. Un'altra questione poi era quella della, della, sì, della, della, appunto, del rifiuto della retorica dello Speroni. La posizione retorica è molto diversa da quella del Patrizio, perché qui si lega tutta quanta la sua impostazione fortemente ermetizzante, che in fondo non c'è assolutamente in... Poi appunto sì, le ultime cose, vero? Sì, la forte, la posizione di Campanella. Ora io anche su Campanella avrei molti dubbi, ora Campanella è pieno di elementi esoterici, no? Se, non è che rifiuti il segreto, mi pare che dico, questo faceva addirittura, come tutti sappiamo, addirittura le esperienze, insomma, giocherelli astrologici col Papa, vero, nel segreto nelle camere papali, quindi pieno di elementi esoterici. Adesso l'astrologia diventa addirittura uno degli strumenti di governo che controlla le nazioni. Sì, strumento di governo, ma lo strumento di governo l'astrologia era sempre stata. L'astrologia è sempre stata uno strumento di governo, perché anzi, dico, non a caso non c'è principe e non c'è repubblica che non abbia un astrologo, No, è che c'è questa, questa apparente apertura, molto apparente secondo me, apertura popolare. State attenti, io ho molta diffidenza su una qualificazione di Campanella come autore popolare, molta diffidenza. Anche questa presentazione sui muri sì, è utile per farla sapere a tutti, ma in fondo, del resto dico anche però il teatro di Giulio Camillo era un espediente per far conoscere cose a ceti che non le conoscevano. Di Francia, suoi amici, ma non so se poi alla fine cosa poteva essere. Poteva diventare. Tagliati fuori tutti. Poteva diventare anche uno strumento di visione più generale. Dobbiamo questo credo. Tutti qui per sentire il credo che il principio fosse notato. Io poi anche su questa cosa, perché non bisogna dimenticare che certamente il Patrizio ha avuto rapporti con Sturm, con questo ambiente riformato parigino, vero? E da cui è imparato Ramo. Ora in Ramo l'esigenza per esempio è molto forte di espansione della cultura civica, artigiani eccetera, non so fino a che punto è anche quello. Se si va a vedere poi gli scolari di Giulio Camillo sono tutta gente di origine molto umile, per esempio lo stesso Brocardo era addirittura un falegname alle origini, no? Quindi ho l'impressione che ci fosse qualcosa di più anche lì. E d'altra parte, poi naturalmente sì, la tecnica della visione, certo ci sono sempre elementi di contraddizione, no? Io ho cercato un po' di unificare sulla linea dell'enciclopedismo come linea che mi sembra la più costante, insomma, e che si differenzia proprio dall'enciclopedismo universitario, che è ancora il vecchio enciclopedismo medievale per molti aspetti, anche se rinnovato in certe tecniche. Diese rhetorischen Ausbrüche in einer Schnelligkeit, der können die meisten Deutschen nicht vorstellen. Also Sie versuchen, diese zwei Referate, die jetzt also nochmal ganze Referate, aber noch kürzerer Zeit gemacht wurden, zusammenfassen. Das kann ich. Es ist zu schnell. Es ist zu schnell, ich kann es nicht. Es ist zu schwierig. Wir bemühen uns von deutscher Seite langsam und deutlich zu sprechen. Sarebbe la via, bisogna che noi italiani si parli più lenti, altrimenti questo dialogo gli amici tedeschi spesso non riescono, così come accadrebbe se gli amici tedeschi. Aber dazu trotzdem, ich habe so viel verstanden, dass es um die Frage auch der Funktion der Astrologie bei Campanella ging und Kollegin stellte fest, dass wohl die Astrologie im Wissenschaftssystem bei Tommaso Campanella die Funktion eines Herrschaftsinstrumentes habe. Ich meine, das ist ein sehr interessanter Gedanke, der mich natürlich zur weiteren Frage nun führt, zur Frage nämlich nach der Rolle der Philologie, die ja Herr Kollege Vasoli sehr stark betont hat, und zwar der neuen Philologie im Sinne einer neuen Philosophie, was ja ein ganz starkes Kriterium für das Selbstbewusstsein der frühen Humanisten ist. Ich nenne nur zum Beispiel auch eine Schrift, nämlich von Budeus, De Philologia, die sehr klar diesen Standpunkt einer, ja, eigentlich eines Wiederaufgriffes des Martianus Capella Begriffes der Philologie ist, aber nun modifiziert, transformiert in ein antischolastisches Programm. Und hier eine Frage. Ich habe in Erinnerung, Sie haben einmal vom Programm der Academia Veneziana gesprochen und auch die Theologie genannt. Und das hat mich überrascht. Denn das Fehlen der Theologie ist ein Phänomen bei den frühen akademischen Vereinigungen ein Phänomen, ich glaube, was man einfach feststellen darf, was auch zusammenhängt vielleicht mit dem Selbstbewusstsein der frühen Humanisten, die eben als eine elitäre Schicht der Literati auftritt. Und nun etwas anderes. Sie sprachen vom enzyklopädischen Programm, dass zu diesem Programm gehört die Vulgarisation, also die Popularisierung. Da frage ich mich, ist das so generell festzustellen? Es gibt ein elitäres Literatenbewusstsein unter den Humanisten. Und die Frage des Publikums, ist das Publikum ein breites Publikum, was erreicht werden soll, wie bei den Enzyklopädisten? Hier scheint mir ein Unterschied zu sein. Enzyklopädisten wollen vulgarisieren und ein großes wissenschaftliches System popularisieren. Die Literati als Humanisten wollen, glaube ich, in der Frühphase etwas anderes. Sie wollen untereinander in Kommunikation treten und ihr elitäres literarisches Selbstbewusstsein bestätigen. Also ich glaube, diese Identifizierung von enzyklopädischer Tradition und von humanistischem Programm kann ich nicht ganz nachvollziehen für die Auswirkung im deutschen Raum. Allora, il problema si divide in queste due richieste. La signorina Böhme è stupita che nel programma e anche nelle camere, se ricordo bene, dell'Accademia Veneziana figuri anche la teologia, perché nella realtà tedesca le accademie invece escono da questa compresenza. Questo è il primo punto. Il secondo problema è quello del rapporto tra umanisti, filologia, cioè il problema della filologia. Il problema della filologia e il rapporto tra filologia e, io direi, erudizione. Credo sempre di più che bisogna andare veramente a un'analisi di che cos'è stata l'erudizione, non analizzandola più da un sistema filosofico che dà già per scontato che cosa sia, cioè una cosa meno importante. Ma l'altro problema invece su cui insisteva la signorina Böhm è quello del rapporto tra umanesimo, coscienza elitaria dei gruppi umanistici che scrivono in latino, che parlano in latino, e dall'altra invece il problema dell'enciclopedia e il problema della volgarizzazione. Si chiede, dice, nel mondo tedesco le cose non stanno sicuramente così, e si chiede se non esista una contraddizione tra umanisti che si profilano in certo modo e vogliono ancora il latino, e questo nuovo programma di volgarizzazione che diventa invece il programma di volgarizzazione di una certa enciclopedia. Sì, quanto al primo punto, Ho capito male? Quanto al primo punto, la questione della teologia, questo sì, è molto interessante, perché ecco, un fatto tipico, a mio parere, della cultura del tardo 400 in Italia, l'Accademia Platonica, proprio al centro di questo, è il fatto che i laici cominciano a discutere di teologia. Cioè, è chiaro, l'Accademia Platonica di Ficino è un luogo dove si discutono problemi teologici, non soltanto filosofici, ma teologici. Indubbiamente c'è, cioè, la nascita di una teologia di laici, cioè in fondo. Quindi il fatto nuovo è che si fa una teologia semplificata, di carattere poi affidata soprattutto a tematiche platoniche. In fondo dico, quest'uomo, per esempio, che è il traduttore di Platone, eccetera, commenta l'Epistola di San Paolo. Tocca temi teologici, indubbiamente, si discutono temi teologici che cominciano a interessare, questo è un fatto molto, molto significativo, anche uomini che non hanno niente a che fare con la professione clericale. In fondo Ficino ha intorno a sé, sì, letterati, ma ha intorno a sé poi anche mercanti, intorno a sé uomini politici, in fondo. Il fatto che Lorenzo dei Medici, a un certo momento, si impanchi a parlare di teologia è abbastanza significativo. Cioè, la teologia comincia a diventare un argomento di cui si parla. E io credo, sono convinto, che molti degli elementi attraverso cui passano anche certe tendenze della eterodossia italiana del Cinquecento, che appare sempre più un fenomeno molto più diffuso di quanto si pensasse una volta, specialmente proprio negli strati dei letterati. Ormai mi pare che tutte le ricerche dimostrano che tra i letterati cinquecenteschi la presenza di elementi eterodossi, di idee eterodosse, era notevolmente diffusa. Specialmente a Venezia, ma non solo a Venezia, anche a Firenze, come si è visto. La diffusione dell'eterodossia passava proprio attraverso il fatto che i laici discutevano di teologia, ne discutevano con dei linguaggi che del resto, tra l'altro, nei quali era anche difficile agli stessi inquisitori e agli stessi teologi cogliere gli elementi eterodossi, perché si trattava di un altro linguaggio. L'espressione, l'uso, il grande uso delle filosofie dell'amore, il grande uso delle tecniche di platoniche nel Cinquecento, dei discorsi platonici, serve enormemente a fare passare una serie di concezioni, di dottrine eterodosse, di cui però perfino direi gli uomini di chiesa specializzati non colgono molto spesso il senso preciso, o lo colgono a molta distanza di tempo. A me ha colpito sempre il fatto che addirittura nel 1575, se non sbaglio, si pubblichi a Parma un libretto di Giulio Camillo, che era morto da molti anni, titolato Discorsi sulla cena del Signore, addirittura il titolo già abbastanza allarmante, nel quale ci sono elementi di tutti i tipi, insomma, ma fortemente eterodossi, ma che sotto questo linguaggio tra cabalistico e platonico dovevano sfuggire, mentre erano comprensibili a un certo pubblico ai quali si rivolgevano. Quindi credo che la discussione teologica sia un fatto molto importante nelle accademie italiane, proprio perché questa teologia di cui si discute è una teologia di laici, per laici, che non ha niente a che vedere con la teologia ufficiale e con la teologia scolastica e con la teologia sistematica. È un'altra cosa, ma è una cosa abbastanza importante, a mio parere, abbastanza significativa. E questo non accade in Germania, perché in fondo in Germania si è avuta una rivoluzione, in qualche misura proprio dei teologi stessi, in sostanza. In fondo la riforma in Germania è guidata da teologi di professione in gran parte, sia pure anche di formazione umanistica, ma teologi, Lutero, un teologo, insomma. Tra l'altro è interessante notare come i teologi italiani, i teologi ufficiali italiani, passati alla riforma, devono emigrare tutti, insomma, i teologi di professione. Si trattasse di Occhino, si trattasse di Verminio, sono tutte persone che vanno poi nell'emigrazione. Questo quanto a poi il problema del rapporto tra dell'importanza della filologia, come dice appunto erudizione. Certo, l'erudizione va intesa proprio nel senso preciso di critica. Bisogna chiarire un punto, a mio parere, essenziale. La filologia umanistica è stata soprattutto un metodo di critica che è diventato un metodo di critica storica. La critica storica nasce, in fondo, per molti aspetti, con Balla. Le opere di Balla sono già dei modelli proprio di critica storica. Non soltanto, vero, la critica celebre al Costituto di Costantino, ma tutto il metodo che Balla usa nella discussione di tutti gli argomenti. E notate anche questo, vero, che già la discussione teologica, per esempio, vabbè, Balla è formalmente un prete, ma insomma lo è molto formalmente. Balla discute largamente con metodologia filologica questioni di teologia, oltre poi a affrontare per primo la questione anche dello status, tra i primi, non il primo, ma tra i primi la questione dello status della tradizione stessa delle sacre scritture. Quindi la erudizione è uno strumento di critica storica, in realtà, che si viene poi applicando sistematicamente a tutti i campi del sapere. E il fatto, per esempio, di dimostrare che in realtà, ecco, l'aristotelismo non è un blocco omogeneo, ma l'aristotelismo è una serie di sovrapposizioni storiche che sono avvenute attraverso una infinità e diversità di commentatori, di testi, il mettere in luce proprio attraverso questo le aporie interne del sistema, le difficoltà che esplodono sempre di più all'interno, questo è un fatto essenziale. Negli stessi anni, in fondo, nel corso del 400, l'applicazione di metodi filologici, ad esempio, al testo di Tolomeo porta alle medesime conclusioni, cioè a mettere in luce fortemente le aporie interne alla concezione tolomaica, le difficoltà, gli stessi dubbi sulla tradizione del testo, eccetera. Cioè è un complesso è una critica che diventa veramente uno strumento dissolutivo profondo, in fondo. E quindi la connessione lettere, cioè filologia, in fondo, e erudizione è molto importante, a mio parere, è un elemento centrale della funzione sviluppata dalla cultura umanistica. Quanto poi alla questione ultima, proprio del volgare e del latino, bisogna sottolineare una cosa: in fondo, gli umanisti italiani sono sempre stati apertamente bilingui. Cioè, è difficile un umanista che non abbia scritto in tutte e due lingue, tranne qualche caso. Ma insomma, Poliziano è un autore tipicamente bilingue. Lo era perfino Leonardo Bruni, il quale del resto riconosceva l'importanza e l'utilità del volgare. Cioè, l'Alberti è scrittore tipicamente bilingue. Cioè, non bisogna non cadere forse troppo nell'idea che, l'idea tanto cara a Toffanin, che l'umanesimo fosse proprio un fenomeno di restaurazione del latino. No, insomma, il latino aveva la sua importanza, però c'è, basta pensare, insomma, chi sono stati gli iniziatori del movimento umanistico in Italia? Petrarca, e d'altra parte Boccaccio, per molti aspetti. Boccaccio è tipico, c'è un scrittore tipicamente bilingue, questo. Quindi il bilinguismo, in fondo, dell'umanesimo italiano è un fatto abbastanza tipico, è abbastanza presente sempre. Lo stesso Ficino sente il bisogno di volgarizzare gli scritti suoi che possano avere una più rapida diffusione. Il commento al Convivio lo scrive in due lingue, scrive anche altri testi in due lingue. Cioè c'è sempre stato un aggancio con il volgare nell'umanesimo italiano. Questo mi pare che non si possa trascurare. E poi questo emerge sempre di più nel momento in cui cambiano anche i ceti intellettuali. Bisogna pensare, bisognerebbe poter fare veramente una statistica e poter studiare bene questo fenomeno. Insomma, l'ampliamento che ha luogo dei ceti intellettuali tra 300 e 500, a mio parere è molto notevole. È molto notevole anche poi perché questi ceti si formano con procedure diverse, strumenti diversi, da quelli che erano una volta soltanto, in fondo, in gran parte, le strutture della Chiesa e degli ordini religiosi. Quindi il volgare è anche una conseguenza proprio del fatto che sono aumentati gli uomini di cultura, è aumentato il ceto degli intellettuali, e che poi anche ceti che prima non avevano interessi letterari li cominciano ad avere. Basta pensare un po' al fenomeno tipico dell'ampliarsi enorme della cultura degli artisti, per esempio, degli artigiani. Un uomo come Leonardo è la punta di un iceberg, in fondo. è la punta di un iceberg, ma sotto questo iceberg c'è tutta una classe, un ceto di uomini come lui, che cercavano di apprendere, di conoscere, che avevano, Leonardo addirittura cerca disperatamente di studiare un po' il latino per conoscere meglio le cose, ed era in fondo un uomo venuto su dalla carriera puramente artigiana, aveva cominciato da ragazzo a vivere in una bottega artigiana, quindi c'è questo fenomeno. Un uomo francese, pronto a intervenire. Non so se la, questa risposta è un riassunto per i tedeschi. Ich glaube, das ist nicht nötig jetzt. Nein, er hat nochmal zu den beiden, zu den drei Fragestellungen genommen, zur Frage der Stellung der Theologie im Humanismus und geäußert, dass die Humanisten sehr wohl im Thema da eine theologische Diskussion geführt haben. Auf der anderen Seite aber wäre es eine Frage, wie weit Theologici als Berufstheologen zu diesen humanistischen und dann auch den Akademiebewegungen gehört haben. Das wäre eine weitere, eine Frage, die wir weiter uns dann stellen sollen. Dann eben hat Herr Vasoli nochmals die, vor allem die besondere Bedeutung der kritischen Philologie als des wissenschaftlichen, wissenschaftsgeschichtlichen Instruments des Humanismus hervorgehoben als kritische Methode und insofern besonders betont, dass der Humanismus eben auch ein Problem, ein Methodenproblem in der Wissenschaftsgeschichte ist. Und in diesem Zusammenhang ist er auch nochmals eingegangen auf die Frage der Vulgarisation, speziell eben bei den italienischen Humanisten, die in Muttersprache schreiben. Genügt aber, glaube ich, dazu. Professor Kunda. Ma io mi impegno a parlare non solo lentamente ma anche brevemente, che da quanto finora è emerso dalla discussione, dalle relazioni, mi pare possano essere proposte alcune questioni, con la preoccupazione d'altra parte di non anticipare le poche cose che domattina avrei in progetto di dire. Io inizierei ponendo una domanda anche curiosa, divertente. Se il tema di questo seminario è il rapporto tra università e accademia, se questo rapporto si dà nella tradizione italiana come un rapporto di separazione, vorrei sapere come mai, attraverso quale processo, oggi la più parte, se non tutti i tre presenti, si chiamano accademici. E vedo un segnale curioso, più o meno divertente, ma indicativo di un processo che probabilmente è proprio. I richiami che Revoldi faceva alla complessità del campo semantico, che questa cosa chiamata accademia pone, credo siano emersi poi, no? Dal discorso di Vasoli, dai riferimenti a questa o a quella accademia. E le difficoltà semantiche possono essere, a mio avviso, direttamente connesse al fatto che non si affronta il problema accademia nell'insieme della sua fenomenologia, cioè in riferimento proprio a quelle 2889 accademie che Mainlander raccoglie, ad esempio distribuite in 398 città o paesi di terra. Questo pone un problema non soltanto di capire se la parola accademia, se e come funziona in tutti questi paesi e in tutta questa durata, ma se e come continua a funzionare, credo che sia il problema di questo seminario, laddove la parola accademia diventa accademia scientifica. Perché allora, nella tipologia che io posso, così, che correnti calamo, trovare, io riconosco le accademie d'arte, le accademie teatrali, le accademie cavalleresche, le accademie musicali, le accademie teologiche e via dicendo. Quindi, l'area semantica si sdoppia, si complica e ci pone un problema che a mio avviso può essere affrontato e risolto se noi guardiamo all'insieme, cioè esattamente ai cinque volumi, per quanto attiene l'esperienza italiana, ai cinque volumi di quel benemerito. C'è un secondo rischio che mi pare emerga dall'avvio della discussione. è quella di considerare l'Accademia come accademia permanente. L'Accademia, le accademie, tranne alcune rarissime eccezioni, vitalizzate forse con Cerovital o altre cose, sono istituzioni effimere. Sono istituzioni effimere, periodiche, discontinue, intermittenti. E l'essere accademico di alcuna o nulla accademia è a tempo parziale, non è a tempo pieno. Quindi il rischio è quello di partire dai cataloghi degli accademici per fare un discorso sull'accademia. È, secondo me, un rischio troppo. Io sono un accademico, credo, di un paio di accademie, e sarebbe un po' buffo, curioso, che dai cataloghi si utilizzasse il mio nome per risalire all'identità culturale di questa o quell'accademia, ammesso in questo senso. Per chiudere una semplice battuta sul problema che si apriva del rapporto tra volgare e accademia. Una battuta di un protagonista della fase primo cinquecentesca, che è poi a mio avviso la fase cruciale in quanto fase di fondazione dei meccanismi tipologici istituzionali, del Florio, cioè di un umanista attardato, di un avversario della cultura volgare. Non ricordo in quale testo, ma c'è la scheda di dato, se la posso far vedere, dice: appena qui qualcuno riesce a mettere insieme quattro battute in volgare, fonda un'accademia. Allora, il problema è... No, scusate, io è un problema devo fare il prepotente, cioè queste cose... È il convittore che ci deve dire cosa facciamo. Perché anche le risposte a quando non credo si possano dare in due minuti. C'era Benzoni adesso. Ma